GR Europa. Centinaia di ciprioti si sono riversati in queste ore davanti alle banche cooperative dell'isola dopo che hanno cominciato a circolare voci su un possibile prelievo dai depositi con oltre 100.000 euro custoditi anche in questi istituti di credito. Finora le uniche banche alle quali doveva essere applicato il prelievo erano la Bank of Cyprus e la Laiki Bank, quest'ultima inglobata nella prima. Emergenza budget per l'Unione mentre si discute sui tagli decisi dalla Commissione per il bilancio 2014-2020. L'eurodeputato Giovanni La Via, capo delegazione italiana del PPE al Parlamento europeo, dice è già emergenza. Il pericolo è reale perché il fabbisogno di stanziamenti di pagamento è largamente superiore alla disponibilità. Già l'anno scorso abbiamo trasferito fabbisogni di pagamento dal 2012 al 2013, cioè fatture che l'Unione Europea doveva pagare agli Stati membri nel 2012 sono state di fatto spostate al 2013. Questo significa che adesso nel corso del 2013 non solo devono pagare ciò che c'è avanzato a pagare nel 2012, ma tutto quello che c'è nel 2013 e anche in quest'anno, nel bilancio di quest'anno, gli stanziamenti di pagamento sono insufficienti. Addirittura c'è un rischio sui pagamenti in corso? Nella seconda metà dell'anno potrebbe accadere che alcuni programmi, parlo di programmi di ricerca, programmi che attengono le piccole e medie imprese, il famosissimo Erasmus, potrebbero vedere un arresto nell'implementazione, potrebbero non esserci le risorse sufficienti per continuare a implementarli, quindi il rischio è uno stop a questi programmi, che sono tutti programmi legati alla crescita e all'innovazione. L'intervista è stata realizzata da Anna Marino. Nonostante la percentuale di ricercatrici in Europa sia in aumento, la loro presenza nelle discipline e carriere scientifiche rimane ancora insufficiente. Questa è la conclusione dell'ultima edizione dell'indagine She Figures, pubblicata oggi dalla Commissione europea. Le donne rappresentano soltanto il 33% dei ricercatori europei, il 20% dei professori ordinari, il 15,5% dei direttori delle istituzioni nel settore dell'istruzione superiore. Ed è stop dell'Europa agli additivi presenti nei mangimi per stimolare l'appetito degli animali. La decisione, che entra in vigore il prossimo 10 aprile, prevede, salvo autorizzazioni specifiche, il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi che appartengono al gruppo di sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito. Il provvedimento, deciso dalla Commissione europea, ha ottenuto il sostegno degli Stati membri riuniti nel Comitato europeo per la catena alimentare e la salute animale. Bene, con questo abbiamo concluso la settimana di GR Europa. Ci risentiamo lunedì poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.